L'ultimo giorno a Parigi. Montmartre, due crêpes, il bar di Emily dove finalmente trovano l'unico caffè bevibile di tutta la Francia. E ancora, Pigalle, il Moulin Rouge pieno di ultra settantenni con il peacemaker in sciopero. E una visita involontariamente guidata presso uno dei più grandi e fantasiosi sexy shop d'Europa. Con annesso cinematografo. Con il proposito di comprare un souvenir al ministro della sicurezza in occasione della sua laurea. Infine, il ritorno dell'amica che non c'era ma che ora c'è ed è appena sopravvissuta a un discreto uragano di sfiga. Ma ora che l'amica c'è, i due devono non esserci e partono di nuovo alla volta di Lione e dell'Italia. Si perdono. Si ritrovano e si riperdono. Con il portavoce che chiede delucidazioni sulla strada in piena banlieue credendo di essere a Euro Disney. E il sindaco che si barrica nella propria auto. Protetto da un muro di cappelli di paglia.